in primo piano. Martedì 30 novembre, l'apertura del Sole 24 Ore, rischio euro colpisce le borse. Il giorno dopo il piano di salvataggio annunciato per l'Irlanda, le borse hanno reagito in una giornata davvero in modo convulso. E poi Wikileaks è ancora l'apertura per tutti. Corriere della Sera, l'America reagisce, li puniremo. Wikileaks, tutte falsità, è la frase di Berlusconi sulla Stampa. Per Repubblica, ragazze pagate per mentire, è sempre Berlusconi. Per Il Giornale, Wikiflop, solo gossip e ovvietà, mentre per Il Fatto Quotidiano c'è la foto di Berlusconi con due donne. Quest'uomo è uno scandalo mondiale, ma noi lo sapevamo già, questo è il titolo d'apertura, mentre Libero dice fuori i segreti della sinistra, coraggio Wikileaks. E vedete che è il tema ancora che prende le prime pagine dei giornali, anche se io voglio e vorrei doverosamente iniziare dalla morte di Mario Monicelli. L'abbiamo sentito nel GR, Mario Monicelli, 95 anni, ieri si è suicidato, si è gettato dal balcone dell'ospedale. E trovate su tutti i giornali, profili, ritratti di un grandissimo del cinema italiano. Sul Corriere della Sera c'è anche la cronaca di quello che è avvenuto ieri. Ma deve stare proprio sotto la pioggia, non potete spostare mio marito da lì, è assurdo che nessuno intervenga. Inizia così l'articolo di Paolo Foschi e Rinaldo Frignani con le parole di Chiara Rapaccini, la moglie, che si dispera, piange, composta, senza scenate ma decisa, mentre gli agenti della scientifica scattano fotografia al lenzuolo bianco che copre il corpo di Mario Monicelli. Spostarlo dal viottolo accanto alla siepe, alle spalle del pronto soccorso, non è però possibile, almeno fino all'arrivo del magistrato di turno. E così, dopo aver incontrato gli infermieri, dopo essere stato salutato alle 20:30, dopo qualche minuto, Monicelli, secondo la ricostruzione della polizia, si è affacciato al balcone del quinto piano e caduto di sotto un volo di 15 metri. E tra l'altro, come ricorda in un'intervista Verdone, che viene sentito proprio dal Corriere della Sera e dice l'ho saputo 5 minuti fa, come è successo al padre? Il padre di Monicelli si suicidò e racconta Verdone: mi vengono i brividi a pensare che Mario trovò suo padre suicida nel bagno, cicatrici che restano, ci sono cose che geneticamente, misteriosamente camminano dentro di noi. Anche sul Fatto Quotidiano c'è un bel ritratto di Malcolm Pagani. Monicelli, la grande guerra è finita, questo è il titolo, molto malato, si è buttato dal quinto piano dell'ospedale San Giovanni di Roma, e Malcolm Pagani racconta proprio di come Mario Monicelli parlò di suo padre suicida, suo padre Tommaso, amico in gioventù del Duce, poi antifascista. Un colpo in un cesso modesto come palcoscenico nel proprio salute estremo. E come sintetizzò Monicelli, la vita non è sempre degna di essere vissuta. Se smette di essere vera e dignitosa, non ne vale la pena. Sempre così, col suo giudizio secco, sfrontato, indifferente alla valutazione esterna. Un Mario Monicelli che, dice Malcolm Pagani, di cui mancherà tutto, nome, arte, spirito, sogno, non è mai stato indulgente perché lui giudicava cattivo, giusto, unico. Mario Monicelli, oggi trovate vari ritratti sui giornali, come tra l'altro un'altra scomparsa del mondo del cinema mondiale è quella di Leslie Nielsen, no? È diventato famoso forse per la saga della pallottola spuntata. Anche lui si è spento ieri all'età di 84 anni. Dunque il mondo del cinema, e trovate sui giornali oggi anche sulle prime pagine, certo che va conquistate per due notizie che non sono due belle notizie, la scomparsa di questi due personaggi. Sulle prime pagine dei giornali davvero trionfa, con tutte le polemiche paginate, non c'è quotidiano che non vi dedichi almeno le prime 10 pagine sulla vicenda Wikileaks, sia a livello mondiale sia per i riflessi che ci sono in Italia. Per esempio il Corriere intervista l'ex ambasciatore americano in Italia, Reginald Bartholomew, che dice la diplomazia non è un gioco elegante. Certo, se vuole usare questa parola, è stato uno shock, dice a Maria Antonietta Calabrò. Direi sono molto sorpreso, non avrei mai immaginato che documenti del genere potessero essere resi noti urbi e torbi. Certo, spesso l'ambasciatore neanche li legge i cablo che vengono poi mandati a Washington. Spesso sono preparati dalla sezione politica economica, ma portano chiaramente la sua firma. E poi c'è tutto il riflesso per quel che riguarda i giornali italiani sulla vicenda italiana. Berlusconi, che ieri era da Gheddafi, è proprio uno degli uomini per il quale è accusato in alcuni di questi rapporti riservati di essere molto, molto vicino, no? Al leader libico. Il premier dice su di me solo falsità, avete sentito anche nel GR quando ha detto sfortunatamente non ho mai partecipato in tutta la mia vita a nessun party selvaggio, wild party, non so cosa siano, forse sono interessanti, ha detto Berlusconi. Però il Corriere con Maurizio Caprara fa sapere che non rideva ieri a Tripoli Berlusconi, a differenza di quanto sostenuto nella sera precedente dai suoi collaboratori. Era invece con lo sguardo teso, spesso lineamenti irrigiditi. E poi la vicenda sulle ragazze, ragazze che vengono pagate, secondo Berlusconi, per dire cose contro di lui. Perché si autodichiarano prostitute precludendosi lavoro e marito? Perché lo fanno? Chissà chi avrà pagato così tanto. Così dice Berlusconi, come a dire che le ricostruzioni fatte da alcuni, in alcune di queste escort o prostitute, come le volete chiamare, sono alimentate dal denaro offerto da qualcuno. Ma insomma, oggi è il giorno in cui tutti si chiedono: ma questi Wikileaks, a parte che sono 250.000 file, quindi andremo avanti per mesi. Però da Christian Rocca, per esempio, in prima pagina del Sole 24 Ore, Wikileaks, il segreto non scopre la verità. Sapevamo già tutto, più o meno, di quello che è venuto fuori. Per Vittorio Feltri, in prima pagina del Giornale, addirittura Wikiflop, solo gossip e ovvietà. Feltri scrive: per me, vecchio cronista che si eccita ancora per fatti clamorosi, è stata una delusione cocente. Avevo immaginato titoloni, commenti all'acido muriatico, scossoni politici, e invece eccomi qui a descrivere un flop. E anche per Gramellini, il suo Buongiorno, in prima pagina della Stampa, si intitola Wiki Wiki. Diciamo la verità, per ora è stata più eccitante la waka waka del Wiki Wiki. I rapporti degli ambasciatori americani rivelati in un'atmosfera thriller da Wikileaks sembrano una scopiazzatura di Dago Spia, e forse lo sono. Berlusconi è un donnaiolo vanitoso che fa affari col macio Putin. Sul serio? E io che quei due me li ero sempre immaginati dentro la biblioteca a leggere in un monastero i fratelli Karamazov. Sarkozy è un uomo permaloso e dispotico, strano, con quell'aria umile e remissiva tipicamente francese. La Merkel ostinata, prudente, poco creativa, tutto il contrario dell'immagine dei tedeschi. Aspettiamo qualche indiscrezione sul presidente svizzero che va matto per il cioccolato fondente e gli orologi a cucù. Ah, ma c'è anche per Gheddafi, uccide le rughe col botulino e si fa scortare da un'infermiera bionda, un'informazione top secret che cambierà la storia se si escludono quelle 200 o 300 copertine sull'argomento. Come quell'altra secondo cui i diplomatici fanno le spie, da alcuni migliaia di anni, verrebbe da dire. Almeno giustificano lo stipendio, perché per fare il copia e incolla degli articoli dei giornali bastava una segretaria. Sicuramente domani usciranno prove di torture, alieni seppelliti nel deserto con le antenne di fuori, golpe. Ma per adesso la vera vittima di Wikileaks è il mito della carriera diplomatica, con gli ambasciatori per secoli burattinai del potere ridotti a messaggeri dell'ovvio. Insomma, anche Gramellini dice: davvero c'è poco da stupirsi. Anche il Foglio fa un'analisi. Ecco i leak che fanno più male in mezzo al gossip diplomatico di Assange. Effettivamente c'è molto gossip diplomatico, secondo il Foglio, anche di Putin, maschio dominante del Cremlino, di Berlusconi che fa le feste. Non servivano, insomma, comunicazioni diplomatiche, bastava leggere Repubblica o il New York Times, scrive il Foglio. Certo, ci sono in realtà molti leaks cosiddetti, molte falle che sono gravi di conseguenza, come l'ordine di Washington di spiare i diplomatici dell'ONU, oppure il fatto relativo alla battaglia Piombo Fuso, l'invasione, l'operazione militare degli israeliani a Gaza nel dicembre 2008, che secondo il ministro della difesa di allora Ehud Barak sarebbe stata organizzata informando l'Egitto e l'autorità palestinese. Ecco, questi magari sono dei leaks un po' più importanti. Anche l'ex ambasciatore in America, Boris Bianchieri, intervistato dal Sole 24 Ore da Carlo Marroni, dice: tutte cose note, quei dispacci sono carte inutili. Beh, sta di fatto che, insomma, c'è chi getta acqua sul fuoco, però l'amministrazione americana in realtà è preoccupatissima. Dice: dobbiamo perseguitare assolutamente questo Julian Assange, che è scomparso, tra l'altro. Nessuno mi sa dire dov'è. È la mia vera curiosità. Oggi il Corriere della Sera ci fa un'intera pagina: pirata etico o criminale? I segreti di Julian, cioè è un idolo per i suoi fan, perché è un hacker etico, è uno che in nome della trasparenza, in nome di combattere le istituzioni, che secondo lui per definizione corrompono lo spirito umano, ed ecco allora che lui ha fatto tutta questa battaglia, oppure è un criminale vero e proprio che sta mettendo a repentaglio le relazioni diplomatiche, le relazioni tra gli stati. Intanto noi ci chiediamo, secondo voi, nel nostro sondaggio, è giusto, in nome della trasparenza, far sapere tutto questo con WikiLeaks oppure no? Votate il sondaggio e Julian Assange è scomparso, non si sa dove sia. D'altronde l'Australia, di cui è cittadino, ha addirittura annunciato che rischia di perdere il passaporto. L'ultima volta che è comparso in videoconferenza con una conferenza ad Amman, ma lui parlava da un luogo sconosciuto, c'era una stanza non identificabile. Pare che cambi ogni 6 settimane posto nel mondo, gira con uno zaino pieno di cellulari, insomma anche un po' il fascino dell'uomo nomade che sta combattendo da solo contro grandi poteri. E che dire, come detto, Berlusconi ha parlato delle donne che vengono pagate, le prostitute pagate per dire falsità. Oggi c'è da dire che sulla vicenda delle donne e la campagna che per esempio il Fatto Quotidiano sta portando avanti sulla sua relazione di amicizia e anche di affari con Michelle Bonev, produttrice e regista italiana, che sapete il Fatto Quotidiano, bulgara, che sapete il Fatto Quotidiano dice ha fatto un film ed è stata premiata a Venezia secondo il Fatto con un premio farlocco. Ebbene, ora ci sono nuove rivelazioni per il Fatto e per Repubblica. Il film di Dragomira, oppure Michelle Bonev, offre Mamma Rai. Dragomira, Michelle Bonev, scrive il Fatto Quotidiano, ebbe il suo ricchissimo regalo di Natale quando Rai Cinema comprò il suo film Goodbye Mama, da lei scritto, diretto e prodotto, ma che nessuno ha ancora distribuito né in Italia né in Bulgaria, pagandolo 1 milione di euro. Rai Cinema ha comprato su ordine, su espressa richiesta della direzione generale di Mauro Masi, di spendere appunto 1 milione di euro per comprare questo film. Anche per Repubblica, 1 milione di euro per il film della Bonev, la Rai ha finanziato l'amica del Premier. Premiato con un riconoscimento patacca e ora pagato, si scopre, anche 1 milione di euro su input di Mauro Masi da Rai Cinema. E Caterina D'Amico, allora direttore di Rai Cinema, dice a Repubblica: la direzione ci spiegò che quel contratto si doveva fare perché rientrava in un accordo strategico di coproduzione televisiva Italia-Bulgaria, accordo firmato dai ministri dei due paesi. Il film non l'ho neanche visto e comunque non è importante se mi piacesse o no, io ero amministratore delegato di una controllata della Rai e se il mio azionista attraverso la direzione generale mi chiede di acquistare un film, io lo devo fare. E quindi la ex direttrice di Rai Cinema dice: ho pagato, sì, abbiamo pagato, per, non dice la cifra, comunque l'abbiamo pagato i diritti, 1 milione su ordine, perché non possiamo fare altrimenti, di Mauro Masi, della direzione generale della Rai, insomma. La politica, su cosa si intera? Secondo giorno un pochino noioso, francamente. Dopo ieri, oggi la notizia è che salta la riforma annunciata della giustizia nel Consiglio dei Ministri di questa mattina. È un segnale, secondo tutti i retroscena della politica, ai finiani. Meglio, ha fatto sapere Alfano, secondo La Stampa, meglio fare di tutto perché non aumentino le tensioni in Parlamento. Rinviamo la riforma della giustizia dopo il 14 dicembre. A proposito del 14 dicembre, ci sono sempre le varie mosse, no? Dove si posizionano, come voteranno quelle 3, 4, 5, 10 deputati e senatori che possono fare la differenza. Intanto La Stampa con Fabio Martini fa sapere che tra i futuristi, cioè tra i finiani, si fa strada l'idea della tentazione dell'astensione, cioè non votare contro, ma i moderati, Ronchi, Viespola, Moffa, Menia, Consolo, punterebbero a dire: non votiamo la sfiducia, ma votiamo, al limite facciamo astensione. Mentre il Fatto Quotidiano con Marco Palombi fa sapere che nei giorni scorsi Gaetano Quagliariello, che è il numero 2 dei senatori del PDL, ha chiamato a cena chi? Tre senatori che sono in bilico, vale a dire il senatore Musso, il senatore Massidda e il senatore Caselli, che è stato eletto in Argentina e che pare l'anno prossimo si candiderà alle presidenziali col suo Pueblo de la Libertad. Ebbene, quindi Popolo della Libertà. Pueblo della Libertà. E pare che insomma sia stati blindati, secondo il Fatto Quotidiano, i voti di Massidda, Musso e Caselli, appunto come Massidda verrà candidato sindaco a Cagliari, Musso a Genova e Caselli la candidatura alle presidenziali argentine verrebbe aiutato. Questa è la politica, così, schermaglie. Certo, la politica si anima anche perché oggi torna di scena l'approvazione della riforma sull'università, che potrebbe essere approvata oggi stesso. Tra l'altro c'è una forte polemica tra il rettore di Firenze, che ha detto, ha invitato i suoi professori a non fare lezioni, e la Gelmini, che replica è inaccettabile. Voglio segnalare tra l'altro in questo senso l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera di Francesco Giavazzi, dal titolo Una riforma da difendere. Beh, Giavazzi fa una premessa, dice: la Gelmini certo non ha avuto il coraggio di Luigi Einaudi, non ha proposto di abolire il valore legale dei titoli di studio, né la sua legge fa cadere il vincolo che impedisce all'università di determinare liberamente le proprie rette, né ha avuto il coraggio di separare medicina dalle altre facoltà. Però la realtà è che la legge Gelmini è il meglio che oggi si possa ottenere data la cultura della nostra classe politica. Il risultato non è poca cosa. La legge abolisce i concorsi, prima fonte di corruzione delle nostre università. Crea una nuova figura di giovani docenti in prova per 6 anni, confermati professori solo se in quegli anni raggiungono risultati positivi nell'insegnamento e nella ricerca. Chi grida allo scandalo, sostenendo che questo significa accentuare la precarizzazione, dimostra di non conoscere come funzionano le università del mondo. La legge tradisce i giovani che oggi lavorano nell'università non dando loro alcuna prospettiva. Questa è una delle accuse, dice Giavazzi. Purtroppo ne dà fin troppe. Per ogni 10 nuovi posti che apriranno, solo 2 sono riservati a giovani ricercatori che nell'università non hanno ancora avuto la fortuna di entrare. Gli altri sono destinati a promozioni di chi già c'è. La legge innova la governance delle università, limita l'autoreferenzialità dei professori, prevedendo la presenza di non accademici nei consigli di amministrazione. Per la prima volta si prevede che i fondi pubblici all'università siano modulati in funzione dei risultati. Insomma, tutto questo elenco di motivi per cui Giavazzi dice non sarà la migliore delle riforme, ma è la migliore riforma data la classe politica, la cultura della classe politica attuale, e dunque è una riforma da difendere. Certo, continuano le manifestazioni sui tetti, anche spettacolari nei modi di chi protesta, mentre l'Unità, all'interno delle tante pagine che trovate sulla riforma, cosa fa? Torna sulla vicenda di come il ministro Gelmini diventò avvocato. Lo fa con Gianluca Ursini a pagina 19. Avvocato in 15 giorni, la meritocratica carriera del ministro Gelmini. Quando andò a Reggio Calabria nel 2000, si appoggiò allo studio di Pasquale Scrivo, dello studio di Renato Vitetta, allo studio di Pasquale Scrivo, racconta l'Unità, si appoggiò l'attuale sindaco di Brescia, Adriano Paroli. Anche in quell'anno lui passò l'esame. La Gelmini invece, da Renato Vitetta, Maria Stella, dei 180 giorni dichiarati in terra calabra, si farà vedere per miseri 15 complessivi tra aprile e giugno, tutto in un lampo. I pubblici verbali d'udienza scovati dall'Unità denotano 4 stranezze per le quali vanno poste al Ministero delle domande. Dalla sua iscrizione risulta residente per 6 mesi in Reggio Calabria in via Cappuccinelli 40. Perché nessuno dei vicini ha memoria di lei? Signora Ministra, avrebbe dovuto presenziare le udienze con l'avvocato anziano. Perché invece ad attendere con lei l'aula da tutor troviamo persone diverse? Insomma, queste sono le domande che l'Unità vuole porre. Come dire, abbiamo scovato dei pubblici verbali d'udienza che ci pongono, fanno porre alcune domande alla Gelmini, che parla tanto di meritocrazia e poi invece, secondo l'Unità, diventò avvocato così. Che dire, come detto, sugli altri temi del Sole 24 Ore, si concentra sul giorno delle borse. L'euro cade a 1,30 sul dollaro, questo è il titolo di pagina 3. È tutto concentrato al Sole 24 Ore sul giorno dopo il piano di salvataggio per l'Irlanda, che a differenza del piano di salvataggio per la Grecia è stato salutato dalle borse con una giornata convulsa. E trovate a pagina 2 e 3 tutti i dettagli. Io voglio dare questa notizia che secondo me è un po' sottovalutata, ma che il Secolo XIX a pagina 8 e il Riformista in prima pagina mettono invece in rilievo. Sì agli OGM dagli scienziati del Vaticano. Tra oggi e domani manca la ratifica della Santa Sede, ma verrà reso noto un via libera condizionato agli organismi geneticamente modificati da parte della Pontificia Accademia per le Scienze, una delle più autorevoli istituzioni vaticane, che secondo il Riformista, appunto con Anna Meldolesi, un commento in prima pagina, ha dato e sta per dare questo sì importante, una svolta se la Chiesa invoca gli OGM contro la fame. C'è anche un'intervista a padre Gonzalo Miranda: la Santa Sede deve ancora esprimersi, ma i timori sono sempre più immotivati, è il grande tema dei timori, motivati o immotivati, sugli OGM. Chiudo infine su questa vicenda che il giornale mette a pagina 22 e il Secolo XIX in prima pagina, il capolavoro dell'elettricista, 271 tele di Picasso in casa. Secondo il Secolo XIX è così, l'elettricista che ha 271 Picasso. Era l'elettricista di Pablo Picasso, così almeno lui dice, e ora ha detto, ecco qua, io non mi facevo pagare, ma mi facevo fare dei disegni, delle opere dal grande Picasso, e ora eccole qui, 271 tele che voglio vengano certificate, sono doni del signor Pablo. Ovviamente nascerà subito il dilemma da parte di tutti, anche gli esperti d'arte, a dire: sono davvero dei Picasso originali oppure siamo in presenza di un grande potenziale truffatore? Chi lo sa? Intanto ci fermiamo, votate il sondaggio su Wikileaks, la linea al GR.